Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il... Mi faceva notare qui in studio che questa è una canzone che ormai è diventata tristemente famosa, tristemente perché tutte le volte che si sente questa canzone c'è qualche dibattito in corso e si rischia sempre regolarmente di rimanere ingaglioffati in una discussione di tipo politico. Questo è una cosa che effettivamente avviene, pare che evidentemente l'unico cantante politico italiano sia Gaber, ma sì, non è che lo facciamo apposta, pare che effettivamente sia così. Chiudiamo con questo La Libertà e vi dico subito che l'argomento di questa trasmissione anomala di oggi, che a vostra consolazione dura solamente mezz'ora, è un'intervista. Qui continuano a farmi strani segni e strane occhi. È un'intervista al segretario comunale del Partito Comunista di Bondeno e al sindaco Lodi Bracciano. Perché di questa intervista? Per un'iniziativa che di recente il Partito Comunista ha preso anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Ma di questa iniziativa potranno parlarci molto meglio i diretti promotori e in particolare la parola la passo immediatamente al Mirko Dondi, segretario comunale del Partito Comunista di Bondeno. Ecco, io ringrazio il dottor Giatti che ci dà l'opportunità di parlare di questa nostra iniziativa, che come sapete non è un'iniziativa che parte dagli organismi dirigenti del nostro comune, ma è una decisione adottata a livello del Comitato Centrale, quindi un'iniziativa che si svolge a livello nazionale e che tocca un po' tutte le realtà che nella prossima tornata delle amministrative vedrà il rinnovo dei consigli comunali, dei consigli regionali, dei consigli provinciali per la parte appunto della gran parte della realtà nazionale, la campagna elettorale che vedrà impegnate le forze politiche. Per quel che riguarda il nostro questionario, l'abbiamo già distribuito in 1500 copie nell'intero territorio, è stato preceduto da una decisione del Comitato Comunale e a questo è stata seguita una serie di attività nelle sezioni, nei nostri organismi dirigenti, e questo questionario appunto ci proponiamo di portarlo in tutte le abitazioni. Molti di questi questionari sono già pervenuti alle sezioni e hanno già così avuto modo le stesse sezioni di dare una prima valutazione su questo tipo di iniziative. La consideriamo un'iniziativa estremamente importante, in quanto ci rivolgiamo non solo agli elettori comunisti, ma ci rivolgiamo in pratica a tutta la popolazione per trarre un giudizio di quella che è stata la nostra attività in questi ultimi 5 anni e in particolare sul nostro modo di amministrare, che come sapete è sempre così aperto ai contributi, alle critiche e agli interventi dei cittadini, in quanto il nostro modo appunto così di gestire la cosa pubblica è una questione estremamente così, di confronto, di apertura, di sollecitazione, e quindi noi crediamo che questo sia nella continuità l'unico modo per avere un rapporto corretto tra cittadini e amministratori, che ci permetta anche di fare un salto in avanti per quel che riguarda appunto tutte le questioni che sono aperte oggi nelle amministrazioni pubbliche, in particolare appunto nel rapporto con i cittadini. Mi pare che questo primo intervento abbia riassunto abbastanza bene qual è l'argomento del questionario, poi magari potremmo entrare più specifico. Dopo questo pezzo musicale passiamo a Jerry Mulligan e vi faccio ascoltare il primo pezzo, che, se aspettate un attimo lo leggo, è Carioca. Dopo questo pezzo di Jerry Mulligan entro io sono Alberto e faccio gigante nano, tanto per ricordarlo. Direi di entrare nel merito del questionario di cui prima parlava Mirko, chiedendo al sindaco in particolare di spiegarlo un po', ecco, i temi soprattutto riguardanti il comune di Mondeno. Bene, come diceva prima Adondi, questo questionario ha diverse caratteristiche. La prima che noi ci siamo posti di affrontare è quello di dare da una parte una informazione di quanto si è fatto o si è programmato in questi 5 anni e dall'altra parte di raccogliere indicazioni, suggerimenti, proposte per i prossimi anni che abbiamo di fronte. Ora, il questionario è articolato nel modo seguente. Esistono alcune domande che sono di carattere più nazionale, sulla situazione politica generale, lo stato di crisi dell'Italia e così via. Poi c'è una fitta serie di domande riguardante la regione, gli impegni programmatori della nostra regione Emilia-Romagna, i settori nei quali essa maggiormente ha impegnato la parte del bilancio sia ordinario che straordinario, e vi è poi la parte riguardante la provincia, cioè i settori di intervento dell'amministrazione provinciale di Ferrara e gli impegni che questa ha assunto sul territorio provinciale. Vi è infine l'ultima parte che riguarda più specificatamente il comune di Pondeno, ed in questo caso vi sono tutta una serie di domande e di documentazioni anche relative agli interventi operati dalla giunta comunale, che la giunta comunale ha proposto al consiglio, e atti che sono stati compiuti in questi anni, e dall'altra ci sono richieste di approfondimento, richieste anche di suggerimenti, di proposte di quali sarebbero i settori più carenti e soprattutto i settori che maggiormente necessitano di essere ulteriormente approfonditi. In modo particolare direi che la parte comunale, elaborata dal Comitato Comunale del nostro partito qui a Pondeno, è articolata in quattro settori portanti, cioè in questo modo: ci sono i servizi del territorio, quindi sono quei servizi pubblici che abbiamo fatto e che stiamo programmando sul territorio comunale; ci sono i servizi della scuola e della cultura, i servizi riguardanti lo sport e il tempo libero, ed infine i servizi relativi alle attività produttive e dei servizi sociali. Dicevo, questa articolazione sono poi i settori di intervento che abbiamo previsto di fare nel nostro piano poliennale degli investimenti 1979-81 e che saranno poi la base di approfondimento anche del prossimo programma elettorale che andremo a compiere durante la campagna elettorale, proprio anche sulla base e della valutazione dei questionari che andremo a fare già dai prossimi giorni e sulla base dell'impostazione che intenderemo dare per il prossimo quinquennio 80-85. A proposito di impostazione, la formulazione delle domande è stata elaborata anch'essa dal Comitato Comunale del PC, come ha detto lei prima, o sono state seguite delle direttive che vengono dal Comitato Centrale del Partito, come diceva prima Dondi? Per quanto riguarda la parte comunale, è stata elaborata espressamente dal Comitato Comunale del nostro partito sulla base di che cosa? Sulla base del programma che ci eravamo dati nel 75 come Partito Comunista, sulla base degli interventi operati da questa giunta comunale PCPSI dal 75 all'80 e sulla base di valutazioni che noi abbiamo fatto di quello che sarebbe bene programmare dal 1980-85. Quindi nella nostra autonomia di partito abbiamo elaborato questa parte del questionario relativa al nostro comune di Pondeno. Spiego la domanda, perché siccome io ho assistito alla distribuzione di questo questionario e vi ho anche partecipato, la reazione di molte persone alla lettura delle domande è stata un po' strana. Sì, è stata un po' strana, nel senso che la formulazione, cioè chi l'ha fatto, dimostra di conoscere un pochino come vanno messe un po' giù le cose, perché di fronte per esempio ad una domanda che ti dice, questo a livello di esempio si intende, che il comune ha fatto un favoloso piano di investimenti, poi si chiede a una persona cosa ne pensa del favoloso piano di investimenti, è ovvio che il giudizio è già suggerito dalla domanda, cioè, bisogna anche sapere un po' come vanno i meccanismi delle comunicazioni di massa per fare un lavoro del genere. Prego. Io voglio rispondere a proposito di questo tipo di intervento che appunto ha suggerito adesso Chierici. Indubbiamente nel formulare la domanda ci sono sempre dei problemi di ambiguità, anche così, per essere chiari, insomma, è difficile promuovere una domanda che abbia degli elementi di neutralità rispetto così anche un significato che uno può intendere dare a questa domanda che formula. Però io riscontro questo: dal primo esame che abbiamo in alcune decine di questionari, io ho notato che questo non è un momento di imbarazzo per quel che riguarda la risposta. Cioè, voglio dire, anche i tipi di domanda che, se vogliamo, magari non sono espressi in una forma elegante o comunque così estremamente libera, no? Se vogliamo, ecco, ci possono essere anche questi problemi, qualcuno può interpretare in questo modo. Noi abbiamo avuto solo, diciamo, come obiettivo quello di fare una domanda chiara, cioè se ad esempio su questa questione del piano di investimento, giustamente tu citavi, fosse un tipo di intervento positivo, o se invece era preferibile passare anno per anno ad un bilancio annuale e quindi in questo modo formulare poi una priorità di programmi. Ecco, queste domande, voglio dire che c'è stato un tipo di risposta estremamente avanzata, ecco, proprio a livello politico e a livello dei problemi che noi abbiamo nel nostro territorio. C'è stata la consapevolezza proprio che questo programma riesce nell'arco di un periodo limitato di 3 anni così a dare proprio una chiarezza delle priorità degli interventi, quindi da affrontare rispetto al territorio. Ma i primi questionari da che zona vi sono arrivati? Del capoluogo. Qualche quartiere in particolare? O del centro, direi. Ecco, siccome la sezione... Magari andando verso la periferia le cose cambiano. Ecco, per la periferia non ho ancora dei dati precisi, mi riservo appunto di esaminarli, però ecco, io volevo proprio dare alcuni elementi rispetto a questo. Io ho notato in questi questionari intanto una maturità dentro appunto le risposte che si sono potuto leggere, che vanno nella direzione proprio dei nuovi problemi dell'amministrazione degli anni Ottanta. Ci sono ad esempio degli indirizzi, delle indicazioni per quel che riguarda l'assetto del territorio, l'ecologia, le attività produttive, i servizi sociali particolarmente rivolti all'età evolutiva, all'infanzia e alle persone anziane, cioè gli estremi, i poli della popolazione che hanno più bisogno di interventi per quanto riguarda i servizi sociali. Cioè, secondo me c'è proprio una caratteristica che individua tutti gli elementi di novità dell'amministrazione per gli anni Ottanta. Sì, dopo questi altri interventi direi di andare con un altro brano che, se non vedo male, è di Giorgio Gaber ed è Al Bar Casablanca. Al Bar Casablanca, seduti all'aperto, una birra gelata, guardiamo le donne, guardiamo la gente in passeggiata, con aria un po' stanca, camicia slacciata, in mano un maglione. Parliamo di proletariato, di rivoluzione. Al bar Casablanca, con una Gauloise, l'amico con gli occhiali, e sopra una sedia i titoli rossi dei nostri giornali, blue jeans coloriti, la barba sporcata da un po' di gelato. Parliamo di rivoluzione, di proletariato. L'importante è che l'operaio prenda coscienza. Per esempio, i comitati unitari di base. Guarda gli operai di Pavia e di Vigevano. Non hanno mica permesso che la politica sindacale realizzasse i suoi obiettivi. Hanno reagito, hanno preso l'iniziativa. Non è che noi dobbiamo essere la testa degli operai. Sono loro che devono fare. Loro. Noi. Al bar Casablanca, seduti all'aperto, la Nikon, gli occhiali, e sopra una sedia i titoli rossi dei nostri giornali, blue jeans coloriti, la barba sporcata da un po' di gelato. Di proletariato. Grazie. Bene, riprendo la parola io. Vorrei spiegare un attimo il perché della scelta di questa trasmissione. Ero un po' stato colpito da un titolo di un giornale, precisamente Panorama, che diceva che il PC si avvia appunto alle prossime elezioni facendo le primarie. Le primarie consistevano sia in questo questionario distribuito allo scopo di raccogliere gli elementi necessari per la formulazione di un programma per le prossime amministrative, sia dal fatto che accluso al programma c'era anche una scheda in cui si chiedeva alla gente di indicare chi fosse il candidato secondo loro più idoneo a qualificare il programma stesso scelto dal Partito Comunista. Ed ero stato colpito da questa forma di partecipazione perché i partiti italiani in pratica non avevano mai ricorso prima a questa formula, e riguardo all'iniziativa del PC si è pronunciato in questo senso solo il PRI, che ha più o meno adottato questo stesso tipo di formulazione, cioè questa richiesta da parte della gente di formulare delle candidature intorno a questo tipo di programmi. Per questo, visto l'episodio abbastanza isolato nel contesto della scena politica italiana, la cosa mi ha colpito e ho ritenuto opportuno introdurre anche in questa trasmissione iniziale questo tipo di concetto, che poi evidentemente potrà essere sviluppato quando, come accennava prima Mirko Dondi, si sapranno i risultati più completi di questa ricerca e si potrà parlare degli eventuali risultati. Però di nuovo cedo a lui la parola su questo tipo di iniziative per sentire un po' anche da lui le motivazioni che hanno spinto appunto a questo tipo di forma di partecipazione più o meno diretta del cittadino nella scelta del candidato. Ecco, la scheda è il terzo elemento che accompagna appunto questa nostra intervista ai cittadini. La prima, come si diceva, è quella relativa a regione e provincia, poi c'è il questionario comunale. La scheda è il terzo elaborato che noi abbiamo messo a disposizione ai cittadini, perché segnalino o indichino su una scheda appunto i nomi delle persone che ritengono più idonee a ricoprire cariche pubbliche. Ecco, questo nostro metodo, certamente nuovo per quel che riguarda la forma, non per quanto riguarda la sostanza, in quanto come partito anche nelle precedenti amministrative e anche per la consultazione dei candidati poi per il Parlamento italiano, europeo, eccetera, noi svolgiamo all'interno dei nostri organismi dirigenti una consultazione ampia e aperta a tutta la cittadinanza, così come il nostro costume, in quanto appunto le persone che sono designati in seguito a ricoprire incarichi di partito debbono mantenere quegli elementi che sono sempre stati caratteristici del nostro partito, cioè quello dell'onestà, della serietà, del legame con le masse lavoratrici, dei cittadini, eccetera, una capacità e una competenza nell'amministrare e l'obiettivo appunto di perseguire un rinnovamento, una trasformazione della società. In questa scheda noi raccogliamo i nominativi che le persone appunto ci suggeriranno, le sottoporremo all'esame dei nostri organismi dirigenti, le discuteremo nelle sezioni, nel comitato comunale, e attraverso questa discussione appunto sarà possibile avere anche una rosa di candidati più ampia, sentire le impressioni che la cittadinanza ha appunto e degli amministratori che sinora hanno ricoperto incarichi pubblici e di quelli che a giudizio della popolazione appunto dovranno o meriteranno appunto questo impegno per i prossimi anni. Ecco, quindi il giudizio che io do di questo è di un allargamento, se vogliamo, della partecipazione dei cittadini, agli elettori, a scegliere i candidati, proprio perché all'interno del nostro partito non esiste una carica elettiva che non sia messa in discussione, non sia così vagliata e comunque discussa all'interno della cittadinanza e soprattutto all'interno dei nostri organismi dirigenti. Mancano ancora 5 minuti alla conclusione del dibattito, magari sentiamoci un altro po' di Jerry Mulligan e poi magari facciamo le conclusioni di questo brevissimo intervento. Thank you. Il pezzo di Mulligan che state ascoltando in sottofondo si chiama Blueport. Prima di passare alle conclusioni, volevo ricordare che all'interno del questionario c'è una domanda in cui si chiede ai cittadini se siano a conoscenza o meno delle iniziative che il comune ha realizzato per loro, e il questionario in fondo è una forma per renderli edotti di tutti quelli che sono poi stati deliberati dall'amministrazione comunale. Tra le risposte, mi diceva prima, mentre andava il disco, Dondi, non viene citato tra i mezzi di informazione in nessun modo la radio. Noi riteniamo, perlomeno io lo ritengo evidentemente dal momento che lavoro in un mezzo di comunicazione del genere, che anche la radio possa servire a comunicare tutta una serie di notizie ai cittadini su ciò che fa l'amministrazione comunale. Per cui colgo l'occasione di invitare appunto l'amministrazione comunale, tutte le volte che avrà delle notizie, a comunicarle in qualche modo tramite la radio, per mantenere questo filo diretto con i cittadini, non solo in occasione delle elezioni amministrative, ma anche durante il corso di tutta la legislatura, e attraverso mezzi che non siano sempre e solo la carta stampata. E invito naturalmente, quando saranno elaborati i risultati di questo questionario, a presentarsi per comunicarli eventualmente anche in questa sede alla popolazione. Ciò detto, lascio senz'altro la parola al sindaco per le conclusioni. Bene, credo che, come diceva giustamente Giatti, sia necessario fare uno sforzo maggiore per avere un collegamento con la gente, con la popolazione, con i cittadini, al fine di poter far conoscere da un lato quello che è possibile fare ed operare, e dall'altro raccogliere maggiormente suggerimenti, idee, proposte. Ecco, come amministratore comunale ci siamo impegnati, soprattutto in questi ultimi anni, andando al rinnovo dei consigli decentrati, che debbono essere questo trait d'union, questo tramite tra l'amministrazione comunale e naturalmente i cittadini. Ma oltre a questo è bene procedere anche attraverso le varie fonti di informazione, quale può essere appunto la radio, e questo abbiamo già cercato di farlo e continueremo sicuramente su questa strada. Per finire, direi che come PC, come Partito Comunista, ci sentiamo impegnati in questa fase di raccolta dei questionari, delle schede, ad un esame attento di quanto ne esce, ad un vaglio preciso, e per poter trarre quali risultati ne emergono. Dopodiché, attraverso iniziative pubbliche, assemblee, attraverso riunioni di partito e riunioni aperte a cittadini, daremo i risultati di quanto è uscito e trarremo anche le conseguenze politiche di quanto ne è uscito, e di questo siamo disponibili, dicevo, a collaborare anche con altri organi di informazioni, partendo dalla stessa radio che oggi ci ospita, per poterci ritrovare e fare anche in questa sede le valutazioni che ne scaturiranno da questa importante iniziativa politica. Va bene, ringrazio ancora una volta il sindaco Bracciano Lodi e l'assessore. Ah, c'è stato un piccolo rumore, niente paura, e l'assessore Mirko Dondi per il loro intervento, e vi saluto appunto dal segretario comunale del Partito Comunista, mi dicono qui, e vi saluto dandovi appunto appuntamento a questa prossima occasione. Thank you. Thank you.